fuoco già, già ti guarda Alice. E forse ti dirà ciò che non sai ancora. E quello che non sa lo imparerà da ora. E parlerà il destino, già lo dice. Che basta poco e già, già sarà felice. E quello che tu non l'hai detto già risuona nel suo futuro, perché non è tempo ancora. Nessuno è solo finché di notte, anche lontano a chi non dorme. Per pensare a lui e penserai a lei ancora. Rimani e pensa a questa notte, a quelle cose dette e fatte, a tutto il tempo ancora, senza rimpianti, che avrai davanti insieme a lei. Insieme a lei. Insieme a lei. E forse non sarà come credevi, perché sarà anche meglio di ciò che speravi. Nessuno è solo finché di notte, anche lontano a chi non dorme. Per pensare a lui e penserai a lei ancora. Rimani e pensa a questa notte, a quelle cose dette e fatte, a tutto il tempo ancora, senza rimpianti, che avrai davanti insieme a lei. E te ne accorgerai, ovunque guarderà. Sta già iniziando da stanotte, la vita ora l'abbraccia forte. E anche a te, wow, perché più l'ami, più lei poi ti amerà. E nessuno è solo finché di notte, anche lontano a chi non dorme. Per pensare a lui e penserai a lei ancora. Rimani e pensa a questa notte, a quelle cose dette e fatte, a tutto il tempo ancora, senza rimpianti, che avrai davanti insieme a lei. E parlerai il destino e ciò che dice, e che da poco già, già ti guarda Alice.